Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ho visto cose sorprendenti in questi anni, come bambini di 6 mesi che lallano la melodia di un brano dopo che io gliel'ho cantato, e altri di 3 anni che distinguono chiaramente le diverse parti di un pezzo dopo pochi ascolti. Ho suonato tubi colorati picchiandoli contro i muri e ho preteso di essere oggi un gnomo, domani un cavallo e poi una fata o un ippopotamo. Mi chiamo Valentina, ho 32 anni, vivo in una città, Chiari, in provincia di Brescia, e sono un'esperta of Schulberg. È venerdì 2 di novembre oggi e non è un 2 di novembre qualunque, anche se spesso questo è un appellativo che si usa per le persone un po' tristi, no? Si dice è un 2 di novembre. Oggi è la festa dei morti, per cui non so se siete già stati al cimitero, se ci dovete andare, se ci siete andati ieri che era Ogni Santi, se oggi invece lavorate o fate il ponte, ma tant'è. Oggi noi siamo qui e vi raccontiamo la storia di Valentina, che è una storia interessante perché parla di un metodo di insegnamento, o meglio, lei già fuori onda prima me l'ha raccontato, lo spiegherà meglio dopo, più tardi, in diretta al telefono. È una linea pedagogica, cioè ha a che fare con l'insegnamento, con il passaggio di nozioni, in questo caso musicali, ma in maniera molto particolare, o quantomeno in maniera diversa da quanto si è abituati o da quanto ci si immagina. 349-238-6666, il profilo Facebook del programma è sempre aperto ed è presente anche oggi che è festa. Forse no, oggi non è festa, ma se siete in pausa lo è ugualmente. Scrive Ettore, parliamo di apprendere, di imparare la musica. In questo caso, Ettore, ho imparato a suonare il didgeridoo in Australia. Presente il didgeridoo? Quella roba lì. Tra l'altro ci vuole un metodo, ci vuole, mi pare, se lo sapete, 349-238-6666, un metodo di respirazione particolare, credo, tipo respirazione circolare si chiama, perché non smettono mai di suonarlo il didgeridoo. Vabbè, Ettore, ho imparato a suonare il didgeridoo in Australia 10 anni fa, durante uno di quei viaggi che devo durare un mese e ne dura invece 10. Certo, sono quei viaggi lì, no? Che durano un mese e poi non torni più. Per qualche tempo andai in giro per le piazze italiane suonando il didgeridoo. Me li ricordo quelli che per un po' suonavano il didgeridoo. Ora sono responsabile marketing di un'azienda di pompe idrauliche e il didgeridoo è finito nel garage di mia mamma. Tra l'altro c'era un pezzo che si chiama proprio il didgeridoo come si chiama? Mi verrà in mente. 349-238-6666. Francesca. Vabbè, questa sembra un po' una presa in giro questa. Suoni il kazoo. Avete presente cos'è il kazoo? Il kazoo è quella roba che c'è in tutte le canzoni di Paolo Conte. Non è uno strumento complicato, scrive Francesca, anche perché nel kazoo si parla più o meno. Ma il mio sogno è sempre stato quello di suonare in un gruppo e finalmente ne ho trovato uno che fa swing, che mi permette di essere sul palco con loro e fare delle piccole pernacchie con il mio splendido kazoo. Esatto, questo più o meno è quello che fa il kazoo, delle piccole pernacchie. 349-238-6666. E la storia di Valentina è particolare proprio perché questo metodo, questa linea pedagogica, questo metodo di insegnamento è veramente lontano anni luce dal flauto traverso, o perdonatemi, dal flauto traverso, dal flauto dolce, quello che ti fanno suonare a scuola, dove io ricordo esperienze orribili di, a parte di questi suoni, per cui si faceva sempre solo fra Martino e Campanaro e l'altra che era niente, non mi, è quella del Mulino Bianco, è vero, per Elisa, ma poi ce n'era un'altra che faceva non me la ricordo. Rocky, però. No, però ce n'era una l'abbiamo già detta, Barile Mulino Bianco. 349-238-6666. Comunque abbiate imparato la musica che avete imparato da autodidatti, al conservatorio, da un maestro serio, oppure con il metodo Orff Schulwerk, oggi è la puntata per voi. Questa è la storia di Valentina. Mi chiamo Valentina, ho 32 anni e ho imparato che posso dormire la notte pur non avendo un posto fisso. Sono un'esperta Orff Schulwerk. È una parola difficile, ma l'idea è semplice. La musica si impara facendola e non astraendola. In pratica insegno musica a bambini da 0 a 12 anni. E ho visto cose sorprendenti in questi anni. Cose come bambini di 6 mesi che lallano la melodia di un brano dopo che io gliel'ho cantato. O altri di 3 anni distinguere chiaramente le diverse parti di un pezzo dopo pochi ascolti. Ho colorato montagne su fogli da pacco giganteschi, bagnando carta crespa. Ho suonato tubi colorati, picchiandolo contro i muri o sulle mani. Ballato musiche di altre terre, disegnato farfalle nell'aria muovendo foulard. E ho preteso di essere oggi un gnomo, domani un cavallo, e poi una fata o un ippopotamo. Aufschulwerk è una parola difficile per un'idea pedagogica molto semplice, dove la musica che io insegno si impara facendola e non estraendola da un codice grafico. Per cui i bambini a cui insegno riescono a vivere la musica attraverso il loro corpo e la loro voce. Quando inizio questi progetti musicali nelle scuole, i bambini mi guardano sempre un po' straniti. Poi, quando capiscono che io vedo le cose come loro, cioè io vedo un lago, anche se un lago non c'è, ecco allora in quel momento divento la maestra di musica. Ed è fatta. Studio musica da quando ho 12 anni e in questi ultimi 2 anni, quando tutti sembrano perdere sicurezze lavorative, io inizio a raccogliere i frutti di tutti i miei sacrifici. Ho cominciato anche una collaborazione con il conservatorio. Ho iniziato insegnando questa metodologia ad un gruppo di docenti, tutti più vecchi di me, che mi aspettavano incuriositi. Io, lo stregone del villaggio che entra nel tempio sacro della musica. Dopo il conservatorio ho frequentato dei corsi di aggiornamento specifici per insegnare la musica ai bambini e ho incontrato Ciro Paduano, che è uno dei massimi esperti di questa metodologia, e l'ho seguito nella sua scuola a Roma. Niente 24 ore, niente tailleur o giacca e cravatta per nessuno, ma tuta, paracadute didattico, tuboing, teli colorati, CD musicali, fogli scritti a mano, la voce e il corpo. Entrare in conservatorio e stare dall'altra parte della cattedra non mi aspettavo che accadesse, e invece è accaduto. Mi è mancato il fiato la prima volta. Ho dovuto saltare il pranzo perché la tensione mi ha nauseata fino a 2 minuti dall'inizio. Poi sono entrata e ho iniziato a ballare. Andando su Wikipedia si scopre che l'educazione è un processo volto allo sviluppo e alla formazione di conoscenze e facoltà mentali, sociali e comportamentali di un individuo. Che più o meno, anche se con parole meno complicate, avrei potuto dirlo anch'io. Quello che però non sapevo, in nessun modo, è che la parola educazione, deriva dal verbo latino educere, che significa più o meno tirare fuori ciò che sta dentro. Ed è meraviglioso perché è il contrario di quello che ho sempre visto succedere, e cioè che si provasse a imporre ai bambini, e poi anche ai ragazzi, agli adulti anche, un modo di vedere il mondo e di comportarsi che è del tutto diverso da quello che per loro era naturale. E invece educazione, o almeno quella parola lì, significa fare sì che una persona diventi ciò che è già. Che mi pare un obiettivo bello e molto ragionevole. L'educazione non è l'istruzione, che invece è la trasmissione della conoscenza. E solo in inglese una sola parola significa entrambe le cose. Però spesso si fa un po' confusione anche da noi. E anche con le buone maniere. Chissà, magari tutti conosciamo la musica in maniera innata ed è compito di persone come Valentina aiutarci a tirare fuori le nostre qualità. Farci capire come trovare il musicista che noi già siamo. E forse il suo metodo di insegnamento è più efficace di altri, io questo non lo so. Come non so nulla, ad esempio, che non arrivi da Wikipedia, dove ho anche letto un po' di più sul metodo pedagogico steineriano e su quello montessoriano. Perché queste erano sempre state 2 parole misteriose per me quando si parlava di educazione e di istruzione, e le associavo a scuole per lo più per ricchi e un po' snob. Poi invece mi sono documentato e ho scoperto un mondo. Non lo so, sarà che non ho figli, ma confesso di non essermi mai troppo interessato alle faccende legate alla crescita dei bambini. Invece è un mondo molto interessante, non fosse altro che per il fatto che bambini lo siamo stati tutti. Per cui, ad esempio, ho scoperto che il motto della prima scuola montessoriana è «Il bambino è il padre dell'uomo». E invece quello della prima scuola steineriana è Il nostro obiettivo è elaborare una pedagogia che insegni ad apprendere per tutta la vita, dalla vita stessa. E sono parole bellissime, al punto che mi verrebbe quasi da travestirmi da bambino e iscrivermi domani mattina a qualsiasi delle due. Io ho sempre pensato un po' come Rousseau, no? Avete presente che il bambino nasce buono, ma sono gli uomini e la società a renderlo diffidente, spaventato e alla fine anche cattivo. Io ho sempre un po' creduto nel mito del buon selvaggio. Poi ho scoperto che esistono piccole tribù in Amazzonia dove la civiltà non è arrivata e dove ogni tanto a cena si mangiano uno del gruppo. Non lo so, magari è anche un'usanza, che magari è pure simpatica per molti, ma non per tutti, o almeno non per quello che finisce sulla piastra. Ho scoperto che certi bambini, fin da piccoli, sono piuttosto dispettosi, ad esempio, per mille motivi che non so, e che uccidere le lucertole è una pratica che amano, ad esempio. E poi un sacco di altri piccoli indizi che hanno minato le mie convinzioni assolute, ma non la mia continua fiducia che esista una parte buona in ogni bambino e quindi in ogni persona, e che sia solo necessario scoprire come farla salire a galla. Quella montessoriana, leggo da un libro autorevole, è un'educazione indiretta, che avviene per libera scelta e ripetizione dell'esercizio per il tempo necessario a trovare le giuste risposte. Una vera e propria pratica di disciplina della libertà. E mi paiono parole splendide. La steineriana, invece, mira a sviluppare individualità libere in grado di continuare ad imparare dalla vita, cercando di riconoscere, coltivare e portare a manifestazione le potenzialità di ciascun bambino, rispettando i tempi della sua evoluzione fisica e interiore. In realtà non sembrano approcci molto diversi e sicuramente sono tutte e due molto interessanti e non abituali per chi, come me, ha fatto una semplice e dignitosissima scuola pubblica. Però prova ad immaginare di avere un figlio e dover decidere se mandarlo a una scuola dove verrà lasciato il più possibile libero, anche se con l'obiettivo dell'autodisciplina, la montessoriana, oppure in una dove la giornata è scandita dal racconto di fiabe, la steineriana. Oppure ripiegare come tutti su quella struttura dove dei santi uomini e sante donne si barcamenano ogni giorno senza grosse coerenze con il fine ultimo di mantenere l'ordine e trasmettere delle nozioni di aritmetica, grammatica e geografia. La scuola pubblica. Io davvero non lo so cosa sia meglio. Ma qualsiasi modello che si avvicini al senso primario dell'educazione, come abbiamo letto all'inizio, e cioè tirar fuori ciò che sta dentro, ho già capito che diventerà il mio preferito. (349) 238 6666. Mi scrive Giovanna: io suono il flauto traverso, l'ho imparato studiando la tromba. Un giorno però mi sono accorta che per la tromba non avevo i polmoni, mentre per il flauto traverso quelli non servivano. E visto che ho scoperto, parlandole fuori onda, che Valentina, autrice e protagonista della storia, è diplomata in saxofono, che non è tanto lontano dalla tromba, direi sentiamola direttamente. Pronto, Valentina? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Tu? Io benone, ti ringrazio. Senti, partiamo da questo messaggio di Giovanna, per cui dice non avevo i polmoni per la tromba, però anche tu dicevi che in realtà saxofono sei rimasta l'unica donna alla fine del conservatorio. Sì, nei miei 7 anni ero l'unica donna, sì, nella mia classe. Ma esistono strumenti maschili e strumenti femminili? No, io non credo. Sicuramente forse gli strumenti più grossi sono abbinati di più agli uomini, ma... Ma per una questione di pesantezza, banalmente, non sì, di sforzo. Sì, di pesantezza. Senti, invece, veniamo al tuo racconto e al tuo lavoro, che mi sembra molto più interessante di tutto il resto. Allora, innanzitutto, io chiedo scusa per avere pronunciato più volte malamente il nome. Allora, parliamo di metodo... Scusami, non è neanche un metodo realmente, vero? È una metodologia, una linea pedagogica, diciamo così. Una, scusami? Una linea pedagogica. Ok. Orf Schulwerk. No, scusami. Schulwerk. Orf Schulwerk. Dove per Orf si intende Karl Orf, giusto? Quello dei, sì, dei Carmina Burana. Esatto. esatto. Ok, perfetto, e fino a qua c'ero. L'abbiamo già raccontata, la tua storia è tutta incentrata su quella. Ma come se fossi un bambino di sei anni, no, se fossi un bambino di sei anni me la metteresti in pratica, non me la spiegheresti. Come se fossi il padre di un bambino di sei anni, che vuole capire che cosa fa in quelle aule con i bambini, me lo spieghi velocemente? Allora io prendo la musica e la scompongo tantissimo fino a farla diventare qualcosa che il bambino può fare in maniera immediata. Per esempio lo strumentario ORF, che è una sorta di strumento fatto di laminato, come uno xilofono o un metallofono, per sì, capirci. Ok. È una cosa fantastica perché tutte queste piastre, questi laminati, vengono via. Per cui se tu sei un bambino di 3 anni, io e devo farti suonare 2 note, ho la possibilità di lasciarti su tutto lo strumento esclusivamente 2 note. Per cui io mi occuperò di te che hai 3 anni, spiegandoti che innanzitutto hai un gomito che puoi muovere, perché per i bambini di 3 anni non è così immediato. Guarda, neanche per me che ne ho 37, figurati. Ogni tanto mi fa male quando gioco a tennis, ma poco altro. Per cui posso insegnarti il movimento, posso insegnarti il ritmo e la tua ultima preoccupazione saranno le 2 note che devi suonare. Ne avrai una per la mano destra e una per la mano sinistra. Per cui la semplificazione è un po' la base di tutto questo lavoro, semplificazione che passa attraverso la parola e il movimento, viverlo su se stessi. Quindi quando tu dici semplicemente faccio vivere la musica e non la faccio astrarre, cioè non parto dalle note, da un sì, pentagramma. Non parto dal codice. Sì. Non parti dal pentagramma in sostanza. Sì. Sì. Perché io ho visto su YouTube una cosa che riguarda il metodo, ovviamente, la metodologia o insomma la linea pedagogica ORF, sì. Che si chiama Body Percussion, in cui c'è della gente che si dà dei colpi addosso. Esatto. Fai anche quella cosa lì? Sì, la Body Percussion è anche quella una cosa centrale. Serve per poi portare fuori dal corpo quello che ho provato sul corpo. Nel momento posso decidere su 4 colpi di portarne fuori uno. Io, che sono la tecnica, decido quali di questi 4 colpi far portare fuori. Il risultato finale sarà che avrò, per esempio, un colpo in battere. E i bambini non potranno più sbagliarsi, perché avendo la continuità di fare gli altri colpi sordi su se stessi, possono... Cioè, per cui ho capito, quindi insomma si instaura una sorta di ritmica corale all'interno della quale poi tu improvvisi, più o meno? Io decido cosa fargli portare fuori per il risultato finale. Loro usano il corpo come se fosse qualcosa di muto, perché fuori non si sente in maniera particolare. Senti, quindi però in sostanza, che io abbia capito o meno, questo è meno importante, la sostanza è che con questa metodologia i bambini imparano la musica più in fretta, meglio, in maniera diversa. Qual è la differenza tra fare un'ora di musica a scuola con col flauto traverso come facevo io, o la diamonica a bocca e questo invece? Allora, la differenza sostanziale è che hanno sicuramente vissuto un'esperienza che è adeguata alle loro possibilità. Ok, guarda, già questa risposta è sufficiente. Invece, poi ti devo salutare, visto che, ed è interessante immagino non solo per me, per gli ascoltatori, il fatto che tu dici questo è un mestiere, lo dici sì e lo dici no, che non è codificato, però in realtà in un periodo in cui moltissimi si trovano in difficoltà col lavoro, io sto lavorando bene, sono contenta e mi piace. È così, giusto? Me lo confermi? Sì. Qual è come si diventa pedagogo? Qual è la tua definizione? Insegnanti di... In questo caso esperto. Okay. Come si diventa esperti ORF Schulwerk? Sicuramente ci deve essere una preparazione musicale di base. Ok, questa ci deve essere. Tu hai fatto il conservatorio, infatti. Io ho fatto il conservatorio, sì, e poi c'è una grande scuola in Italia che è la Scuola di Musica Popolare di Donna Olimpia di Roma, dove Giovanni Piazza, che è stato quello che ha avuto il merito di portare l'ORF in Italia, fa dei corsi per poter apprendere questa tecnica. Che musica ascolti tu, Valentina? Cos'hai nel tuo iPod? Ah, ho un sacco di musica tradizionale, ho del jazz e musica classica. Tanta Giovanna Marini, insomma. Ah! Aiuto. Senti, e invece poi concludiamo, mi dicevi che sei a scuola e a breve hai una lezione con i bambini. Che cosa gli insegniamo oggi? Oggi ho due lezioni di saxofono e poi ho qualche lezione di solfeggio. Ok, Valentina, ti ringrazio moltissimo. Grazie a te. In bocca al lupo, grazie per la storia e la chiacchierata. A presto. Ciao. Ciao Valentina. Ciao. Allora, Valentina, se guardate la foto che ci ha mandato e che trovate ovviamente sulla pagina di Voi Siete Qui, sul sito di Radio 24, è chiaramente in una posizione di lavoro. Quindi non è seduta alla scrivania, non è davanti a un computer, ma è in tuta con delle scarpe da ginnastica, ha le gambe incrociate e ha le mani sulle ginocchia, che non si capisce se si sta rilassando o è proprio nell'attimo esatto in cui sta battendo le mani sulle ginocchia facendo body percussion, quello di cui parlavamo prima. Ha una sciarpina intorno al collo, ha i capelli neri legati in una coda e sta chiaramente mettendo in pratica il metodo Orff Schulwerk. Metodo. Sostantivo maschile. Procedimento atto a garantire sul piano teorico o pratico il soddisfacente risultato di un lavoro o di un comportamento. Metodo scientifico. L'insieme delle norme, procedure e convenzioni, basate su criteri di razionalità e obiettività, seguite nello svolgimento della ricerca al fine di assicurare l'attendibilità dei risultati e la loro riproducibilità e verificabilità. Manuale tecnico nel quale la materia è esposta gradualmente, soprattutto sotto forma di esercizi, in modo da facilitare l'apprendimento. Nel calcio, tattica di gioco, praticata fin verso il 1940 e sostituita poi dal sistema. Etimo, dal greco, metodos, ricerca, indagine. Data, secolo XIV. Ce l'ho fatta, incredibile. Ce l'abbiamo fatta anche noi, Alessandra. L'unica questione è che di fatto noi abbiamo utilizzato come termine per il dizionario di oggi un termine che in realtà è leggermente diverso da quello che suggeriva Valentina, perché pare, ho cercato anche prima durante la borsa online, pare che appunto quello Orff Schulwerk, Orff Schulwerk non sia esattamente un metodo, cioè gli esperti non lo definiscono un metodo, ma come dice lei una linea pedagogica, un'avventura pedagogico-musicale. Però ragazzi, va bene metodo, direi, no? 349-238-6666. A proposito di metodi, probabilmente Orff apprezzerebbe. Pierangela scrive: suono il pianoforte da 10 anni, ho iniziato obbligata da mio padre a 5. Odiavo lui e il pianoforte e smisi dopo pochi mesi. Quando mio padre morì, avevo 30 anni e ripresi a suonarlo. Ora mi esercito quasi tutti i giorni e mi sembra di non poterne più fare a meno. È che appunto probabilmente ognuno ha un po' il suo metodo per avvicinarsi. Pietro invece scrive al 349-238-6666. Io sono un pianista, ma vado fierissimo di essermi avvicinato al pianoforte grazie alla chitarra tastiera che Sandy Martin suonava in People from Ibiza. Siete presente la chitarra tastiera? Che poi cos'era? Era una tastiera quella. Paolino, cioè, era una tastiera che nella forma di chitarra. Non dovevi usare. Era una roba super anni 80, però penso che adesso mi piacerebbe quasi sentire People from Ibiza. Allora, ci abbiamo un computer davanti e io posso fare una roba veramente un po' sporca, che non si potrebbe fare. Però posso farlo, Paolino, mandare dal mio computer direttamente People from Ibiza. Guarda qua. Se tu scrivi People from, la prima roba che ti esce è esattamente Sandy Martin. Ve la faccio sentire direttamente, addirittura la pubblicità mi sembra esagerata. Ve lo faccio sentire direttamente dal mio computer, per cui non aspettatevi proprio una, diciamo, una qualità elevatissima. Però adesso appena arriva, perché c'è questa maledetta pubblicità su YouTube, ragazzi, tanto non la guarda nessuno la pubblicità, tutti aspettano che finisca per sentire suonare lui. Eccolo qua, signore e signori, People from Ibiza. Questa, guarda, si sente lontano un miglio che arriva dagli anni 80. Andiamo avanti. Se non vi dispiace la tengo in sottofondo, però visto che siamo a fare questa tamarrata direttamente dal computer, facci in tempo a far sentire quello di cui parlavo prima, quando è arrivato il messaggio di Ettore che dice: ho imparato a suonare il didgeridoo in Australia. A me è venuto in mente questo pezzo che ha, diciamo, il didgeridoo come base, ma che Aphex Twin ha reso una roba super tecno, quella di Aphex Twin, non si capisce bene, che usa il didgeridoo ma esce questa roba qua. Thank you. È sempre il 2 di novembre, è sempre Radio 24 e questa è sempre la musica suonata dal mio computer. Visto che però abbiamo parlato del metodo Orff-Schulwer che non abbiamo analizzato fino in fondo, io ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque, sono andato su internet, ho digitato metodo Orff-Schulwer e questa è la definizione precisa. Il metodo Orff-Schulwer è un'avventura pedagogico-musicale sperimentale concepita e avviata da Karl Orff nel 1924. Con l'apertura a Monaco di Baviera, nel settembre del 24, insieme a Dorothy Günther, della Günther-Schule, una scuola per la formazione di insegnanti e performer che fossero al contempo musicisti e danzatori. Una concezione che innovava la allora diffusa proposta di Émile Jacques Dalcreuz, verso una figura di artista didatta capace di integrare musica e corporeità in un tutto unico, prodotto autonomamente. Questo metodo rende il bambino effettivo protagonista dell'azione formativa, non facendogli calare dall'alto nozioni e procedure, ma facendo sì che egli le scopra per via di esperienze guidate. E non consideri la musica come un'esperienza meramente legata al cantare e al suonare, soprattutto se di musiche già scritte, da imparare e basta. L'esperienza musicale schulwerkiana nasce dal corpo, dal suono vocale e dalla scansione verbale prima ancora che dal canto, dall'uso di una strumentazione didattica di approccio immediato ideata a misura di bambino, lo strumentario Orff. Procede verso forme di integrazione di tutte quelle potenzialità espressive, sia musicali che collegabili alla musica, che portano naturalmente alla performance come momento di acquisizione definitiva della consapevolezza delle abilità e competenze acquisite, includendo in ogni percorso la più ampia possibile partecipazione creativa del bambino e del gruppo, così che il prodotto finale venga sentito come proprio. Per praticarlo come insegnante, invece, serve un'adeguata preparazione sia musicale che motoria. Dal punto di vista musicale è più utile una formazione eterogenea, capacità di usare a livello medio più strumenti, a percussione, a fiato, oltre che alla tastiera e alla voce. Ecco, serve più una formazione di questo tipo che una formazione molto approfondita su un solo strumento. Analogamente, dal punto di vista motorio, è assai utile un'esperienza sia nell'ambito del movimento espressivo che in quello delle danze folcloriche, etniche e storiche. A ciò va aggiunta una forte capacità compositiva e improvvisativa di coordinamento delle esperienze musicali e motorie, oltre ad una buona esperienza di conduzione di un gruppo. Seriously, I felt the day's work upon me. On the downs, we stood by the light of a fire. We watched as the moon rose. We stared in the face of the evening sun and we saw it all through. We did all we could have done. È chiaro che questo metodo, questa metodologia, quello che è Orff-Schulwer, è molto più facile da provare che non da spiegare e da capire teoricamente. In sostanza credo che ci si metta insieme in un gruppo di persone e un insegnante come Valentina, nella fattispecie, niente, quando la spieghi è un delirio. Cerchi di muoverti, andate su YouTube e cercatevi dei video sul metodo, è veramente molto più chiaro. 349-238-6666. Sergio scrive: sono un polistrumentista, suono chitarra, piano, batteria, basso e qualche fiato, ma non saprei dire quando e come li ho imparati, e il metodo che ha appena insegnato Valentina mi piacerebbe apprenderlo. Sergio, allora provaci, si può diventare, lei l'ha spiegato come si può diventare insegnanti. Silvano invece dice: io ho costruito uno strumento, gli inventori sono i miei preferiti, a metà tra una chitarra e un contrabbasso. Ho imparato costruendolo e ora sono l'unico a saperlo suonare. Mi verrebbe da dire te credo. Per concludere invece faccio una cosa che non ho mai fatto, perché sono andato a sbirciare sul profilo Facebook di Valentina e Valentina ha da pochissimo, probabilmente dopo la telefonata, postato una cosa che non c'entra, ma secondo me c'entra. È una citazione di Vasily Rodzanov, che non so chi sia, che dice: un individuo distratto è anche un individuo concentrato, ma non su ciò che si attende o si desidera da lui, bensì su qualcosa d'altro, tutto suo. Grazie a Valentina, grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini, a Stefano D'Andrea e a Margherita Ina. La storia di oggi era la sua, era di Valentina, e anche lei è un punto rosso su una mappa. mi chiamo Simone, sono nato a Pisa ma vivo a Amsterdam e la storia di lunedì è la mia e parla di lasciare tutto, andare a vivere all'estero senza essere un cervellone. Questa è la mia storia e io sono qui.